Nana pama que va la vaca ti sarma Savadana Mate Yahara Prasari Vai Epavatori Ojaha Krishna prapti ho ya hai te Krishna prapti ho ya hai te Guru mukha padma vakya Chitete kori o akya Mukha padma vakya Chitete kori o akya Ana kori ho mane asha charane rati ese utama gati shri guru charane rati ese utama gati ye prasade pure sarva asha Sarva Asha Le prasade pure Sarva Asha Chakudano Biro